intanto è un libro particolare perché raccoglie gli articoli che sono usciti sul settimanale Left, fin dall'inizio, dall'esordio, diciamo così, della riedizione di questo settimanale, che era Avvenimenti e che si è trasformato in Left, peraltro usando l'acronimo di Liberté, Égalité, Fraternité, a cui è stata aggiunta una T. Forse è il caso di partire dal significato di questa T, che cambia un po' le carte in tavola anche in un discorso sulla sinistra, giusto? Giusto, più che giusto, anche se proprio partire dalla T è un po' difficile perché è un discorso enorme. Sulla parola trasformazione, sì, cambiamento, trasformazione, quindi è un discorso filosofico forse, anche no, certamente è un discorso psichiatrico, è un discorso di linguaggio comune, popolare, se vogliamo, se viene usato comunemente per adoperare cose indefinite, anche quello che io direi meglio chiamare cambiamenti, modificazioni, perché riserverei la parola trasformazione a qualcosa che riguarda la mente umana. E mentre di norma quella mente umana, se c'è un uso della parola trasformazione, è quando uno impazzisce. Certo. Cioè non è più lui, è cambiato completamente, si è trasformato, eccetera, eccetera, è cosa che c'è anche nei fumetti, dei film, eccetera, eccetera, senza contare quello che forse non è un fumetto, ma fa parte della cultura, cioè Mr. Hyde, Dottor Jekyll e la strana storia del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Cioè viene fuori questa dimensione che sarebbe l'inconscio, quella del 1884, e lì già si parlava di inconscio, quindi come emerge l'inconscio, il Dottor Jekyll aveva scoperto un liquido, una pozione che riusciva a far emergere l'inconscio, ma l'inconscio era bestia, era violenza, scimmie, più o meno scimmiesca, eccetera, che aveva questa forza sovrumana, e però questa forza sovrumana era soltanto violenza. La stessa idea è quella di Dracula. Un morto, qualcosa che non è vivente, però quindi deve succhiare il sangue per vivere, ha una forza sovrumana, ma serve per la distruzione, è sempre la stessa cosa. Queste allusioni anche letterarie all'incontro. Io volevo proporre, continuo a dire che invece la trasformazione è un elemento fondamentale dell'evoluzione umana. E l'evoluzione umana è, seguendo tutta una teoria che riguarda quello che è, appunto, è anche d'attualità, la storia della gravidanza, la storia della nascita. Quando lì il grande dibattito è questo, c'è tutta una corrente che poi è particolarmente religiosa, eccetera, anche se i razionali non vogliono pronunciarci molto. Certo. Su queste cose dicono che no, non c'è l'individuo, c'è la potenzialità, la possibilità, insomma considerano soltanto questo. E mentre altri dicono che la vita, appunto, e anche Marino disse proprio sull'Est, che cambia tutto, cioè ci sarebbe questa parola di una cosa completamente diversa, completamente nuova, quando lo spermatozoo si unisce all'uovo. Io dico di no, quella non è trasformazione, quella è cambiamento, modificazione, che poi si svolge durante tutta la gravidanza. Queste cose che compaiono, cioè le braccia, eccetera, sono forme della realtà biologica, non si esce dalla dinamica della realtà biologica che riguarda tutti gli esseri animati, compresi gli animali. Mentre la grande storia è quella della nascita, quando dalla realtà biologica compare il pensiero. Allora lì posso mettere la parola trasformazione. Ecco, e allora la parola trasformazione non si riferisce soltanto alla catastrofe mentale, alla schizofrenia, a queste crisi psicotiche gravissime, ma si riferisce anche all'evoluzione. quando uno cambia nel corso, eccetera. Lo sviluppo del corpo è solo sviluppo. Aumento in grandezza, aumento in funzione, aumento, se vogliamo, in forza, ma non si modifica mai. Una volta nato, una volta addirittura formato negli ultimi mesi di gravidanza, resta tale per tutta la vita e non si può modificare. Anzi, tutta la medicina si sviluppa per fermare qualsiasi eventuale modificazione dovuta a malattie. Certo. Allora, già con la sola lettera siamo entrati nel vivo anche di molti dei temi che sono presenti in questi articoli, perché poi lo abbiamo visto anche dall'accoglienza che questo libro sta avendo in questi giorni anche sugli altri organi di stampa, insomma un'immediata reazione, un'immediata accoglienza. Perché evidentemente interessa molto anche a quelli che non hanno ancora approfondito questi temi, interessa molto il rapporto che ci può essere tra un discorso sull'uomo e una, come dire, un rapporto con la politica, una fiducia forse nella politica, un ruolo reale che la politica può avere nella vita delle persone, perché ci sono anche no? Una cosa storica, perché questo left, che significa sinistra in verità, significa anche passato, insomma, va bene, ma soprattutto significa sinistra, ha queste tre lettere che possono benissimo essere prese per iniziali dei famosi tre termini della Rivoluzione Francese, che poi non sono della Rivoluzione Francese, vengono fuori un po' dopo. nell'848, libertà, legalità e fraternità, le prime tre lettere, che sono i cardini, direi, della democrazia moderna, il grande passaggio, la grande rivoluzione francese, che ha tolto l'assolutismo reale per unzione divina, cioè è uscita dal Medioevo, per impostare questa ripartizione dei poteri in potere legislativo, giudiziario, no? Ci siamo, non esecutivo. Certo. Allora, quella genialità dell'editore è stata aggiungere, è stato prendere questa parola sinistra, in cui poi abbiamo elaborato che si poteva benissimo spiegare come una ulteriore evoluzione della Rivoluzione Francese. E la cosa interessante perché? Ma perché se c'è stata una storia storica che ha voluto un po' superare la Rivoluzione Francese, la democrazia, è stato il comunismo. E nel comunismo c'è proprio questa famosa, eterna, ripetutissima frase di Marx. Finora si è pensato, eccetera, ora si tratta, come funziona il mondo, la sapienza, la conoscenza del mondo, ora si tratta di trasformarlo. E quindi la T. Certo. Però questa trasformazione, da un punto di vista teorico, pare che in 100 anni non abbia assolutamente funzionato. Certo, non in effetti. Non ha proprio assolutamente funzionato perché, ma perché, ecco, l'accusa che io faccio, innanzitutto la frase, il mondo non si deve trasformare e non si può trasformare. Anzi, il mondo va lasciato com'è perché c'è una distruzione della realtà del mondo, per cui sarebbe meglio che non lo trasformiamo per affatto. Quello che va trasformato è neppure, come abbiamo detto prima, il corpo umano, quanto la mente umana. In questo senso, sì, proporre, favorire, stimolare i cambiamenti. E adesso se andiamo proprio alla psicologia specifica, che ho cercato di teorizzare in tutti i libri, questo poi è l'ultimo in cui accenno, sì ci sono degli articoli, adesso non ricordo se sono nel 6 o nel 7, in cui parlo proprio di trasformazione, perché si tratta di ricreare quello che abbiamo detto prima, sempre anche nella vita, nei rapporti entro umani, questa nascita, venir fuori da una situazione prettamente biologica, senza movimento della mente, per ricreare una situazione di fantasia, eccetera. Qui la trasformazione, perché l'irrazionale, che è stato sempre marginato, condannato dai due grandi nemici della fantasia e della realtà umana, che sono religione e ragione. Certo. In cui sì, la religione ha detto che è il diavolo, che è il male, che è il peccato originale, eccetera, eccetera. La ragione dice addirittura che non esiste, esiste soltanto il corpo e il funzionamento del corpo. Ed è qui che proprio c'è la, mi viene da dire una parola forte, la nefandezza del comunismo è che esiste soltanto il corpo. Certo che sì. No, esiste soltanto la ragione, ecco il punto. Cioè il pensiero della veglia, della coscienza, del comportamento che serve per la sopravvivenza. Certo, noi sì. Lo ricordiamo, gli articoli continuano a uscire su Left, e questo fatto di avere settimanalmente un appuntamento... Potrebbe essere una bella ossessione, oppure... No, però permette di sviluppare sicuramente un certo dialogo con l'attualità, anche proprio quella, diciamo, più scottante, quella che pone il problema immediato. E immagino che in tutto questo tempo si sia anche un po' modificato il rapporto tra, diciamo, l'inizio della nascita di questi articoli, i fatti che mano a mano il giornale raccontava, e poi, no? Forse è bene ricordare l'eroismo, chiamiamolo così, dell'editore di ormai quasi 4 anni fa, del febbraio, gennaio febbraio del 6, quando, nella misura in cui aveva dato queste pagine, prima una, poi due, ha scatenato la reazione di quelli che aveva nominato direttori e vice direttore, Chiesa e Minucci, ma una reazione di una violenza estrema, per cui era permesso tutto tranne che io scrivessi. E l'editore è stato così, e voglio dire, mi permetto di dire, è stato così intelligente, bravo, invece di scontrarsi, rifiutare e licenziare questi due e lasciare che io abbia avuto le due pagine. Fino al 7. Al 7 c'è stato un altro scontro con altri due direttori che erano stati messi lì, che mi hanno ridotto la pagina a una sola, alla metà di quello che è attualmente. E dopo qualche mese invece di nuovo l'editore ha fatto un'altra rivolta e mi ha ridato le pagine che poi si sono sviluppate, cioè. Il perché è interessante studiare, anche se non è chiaro, sembrano delle reazioni assurde, che sia stato detto, sì, no, tutti i psichiatri va bene, tranne Massimo Fagioli. Vabbè, che ha fatto di male questo qui? Non lo so se c'ha, che cosa c'ha, la febbre suina, cose di questo genere. L'interessante sarebbe studiare se non è tanto le persone, quanti comunisti. Questi paleo comunisti, questi comunisti del vecchio tempo, Chiesa poi non era stato quasi mai in Italia, aveva vissuto sempre a Mosca, era il corrispondente a Mosca, però lui dice mai conosciuto, mai sentito, poi sapeva tutto della teoria e della prassi. Ma infatti molte cose si sanno, e poi c'è molta curiosità anche da parte di quelli che non lo sanno, c'è forse... è una domanda che le sto facendo, c'è forse una crescente attenzione relativamente a determinati temi, e forse anche una maggiore, se vogliamo, libertà di porsi delle domande, o no? Sì, ma la cosa interessante è che poi questo scontro col comunismo, forse, dico forse, perché poi la situazione era un po' più complicata da leggere. C'è stato tutto questo movimento con la sinistra e quella che era una sinistra radicale del 5, del 4, del 5, del 3, cioè prima, con quella che era, si centrava sul partito di Rifondazione Comunista. Certo, Bertinotti. E di fronte all'apertura, io lo dico sempre, continuerò a confermarlo, geniale di Fausto Bertinotti, segretario del Partito di Rifondazione Comunista, di aprirsi a questa ricerca sulla realtà umana, non soltanto per la ricerca di soddisfazione dei bisogni, ma anche per le esigenze, cioè quello che è la caratteristica umana, per cui l'uomo non è se soddisfa soltanto la fame, la sete, il sonno e il calore, ha delle esigenze mentali, ha esigenze di fantasia, di intelligenza, di arte, di fare, trasformare, e così è andato tutto magnificamente bene fino a un certo punto, che sarebbe il massimo il 7, verso il 7. E lì però c'era un ambiente lì intorno a rifondazione, intorno a Liberazione, ma assolutamente ostile. Sembrava che fossero odi personali, non si capiva. Certo. Oppure era proprio che dietro, ma la ricerca io penso è tuttora in corso, il comunismo vecchio, il comunismo tradizionale, che io dissi in una vecchissima intervista del febbraio 80, che era finito il comunismo reale, prima ancora che arrivasse l'89, perché era il febbraio 80, era finito, come se questa teoria sulla realtà umana, sull'inconscio, proprio fosse una cosa per il comunismo insopportabile. Difatti aveva completamente ignorato l'esistenza di questo tentativo balordo dei Freud, di Jung, eccetera, di occuparsi di queste cose, ma perlomeno accettare quello che era successo nell'Ottocento, che l'inconscio come inconoscibile però era stato preso in considerazione con l'ipnosi, eccetera. Quindi una vecchia storia. Non esiste, proprio non esiste, non deve esistere. Io lo proponevo invece come cosa fondamentale per la realtà umana, lo sviluppo, eccetera, e anche per la politica. E per la sinistra, questa è la cosa misteriosa. La sinistra avrebbe potuto, quello che dico, che potrebbe aver intuito Fausto Bertinotti, avere un rinnovamento completo se si occupava anche di esigenze oltre che di bisogni. E invece no, è successo finché anche con Bertinotti le cose non sono andate più bene, per il semplice fatto che voleva mettere a questa scissione che doveva essere il superamento del comunismo tradizionale, del paleocomunismo, e una persona che è cattolicissimo e comunistissimo. E io dico non è possibile. E allora c'è stata una distanza, una presa di distanza, per cui voi se volete seguire uno che è cattolico e comunista, che dovrebbe rinnovare il comunismo, no, io non ci sto proprio, non la mia ricerca è ben diversa, è il superamento del cattolicismo e del comunismo, questa accoppiata poi potenzia al massimo e quindi andiamo a finire le dittature più terribili. Non so se c'è una divergenza di opinione, per cui anche questo è motivo di discussione continua che c'è. E dice, ma tu non ti devi, ecco, quello di cui mi ricordo, tu sei un prepotente, un violento, perché ti occupi della realtà umana di un leader politico. E beh, ho capito. Certo. Io il privato lo rispetto, però quando questo è un leader politico, è la sua realtà umana, pare che conti. Uno ha il diritto di sapere. Poi tanto più che questa non è la realtà umana privata, sono idee politiche, cattolicesimo e comunismo, non è quello che fa privatamente, quello che fa privatamente sono fatti suoi, se la vedrà con i magistrati, eccetera, eccetera. Adesso se c'è questo caso di Bari, con Vendola che sta in bilico e sta, sembra che non sia ancora fatti, indagato, esatto. Però quello sono fatti che se ne occupa la magistratura. Io mi occupo delle idee che c'ha questo, se è un leader politico e se lo voto si dice, no? Devo essere essere un po' d'accordo con queste idee, e io con l'idea cattolica, e razionali al massimo grado e comuniste, vecchie comuniste, non sono d'accordo. Perfetto, perfetto. Io chiuderei qua perché ovviamente per motivi di tempo l'intervista... va editata e collocata nello spazio di approfondimento. E, naturalmente ricordiamo insieme che appunto al di là di questo libro raccoglie il primo anno di Left, poi diciamo altri probabilmente raccoglieranno Speriamo. Gli altri anni di Left, e comunque che tutte le settimane ci sono queste, cioè questo approfondimento appunto nella rubrica Trasformazione che sta nel giornale settimanale. Grazie. Grazie a voi di avermi fatto grazie, parlare. Buona giornata. Alcune cose, grazie notevolmente. Grazie, buona giornata. Allora, fuori onda. A presto. Ciao.